in primo piano. Buongiorno, buon sabato da Giulia Crivelli, bentrovati alla nostra rassegna stampa internazionale. Questa settimana naturalmente parleremo anche un pochino delle elezioni tedesche, ma il risultato lo conoscete tutti e mancano credo molte settimane, forse addirittura qualche mese alla composizione di un governo, quindi possiamo riprendere alcune reazioni del giorno dopo, cioè di lunedì, il giorno dopo le elezioni politiche in Germania, ma non ci sono grandi novità. E quindi ripartirei dai migranti con un articolo molto bello che trovate sul sito di Vox Europe, pubblicato in originale sul periodico Alternative Economique francese e tradotto appunto da Vox Europe, e si intitola L'Europa e i migranti, una solidarietà a geometria molto variabile. Ve lo cito anche perché, secondo la maggior parte degli osservatori, una forza dietro al voto decisamente spostato a destra in Germania in queste politiche, con, sapete, Alternative für Deutschland, AfD, un partito che dobbiamo per forza definire neonazista. Al suo interno ci sono anche esponenti che negano l'Olocausto, per esempio, o che lo desiderano ridimensionarne i numeri, quindi mettono in discussione una verità storica. Però dietro al successo di questo partito, che ed è la prima volta dal dopoguerra che un partito di destra estrema entra nel Parlamento tedesco, tra l'altro con il 12% dei voti, c'è anche una reazione, così secondo molti osservatori, alle politiche di migrazione, di accoglienza dei migranti attuate da Angela Merkel nei suoi primi tre cancellierati. E quindi questo articolo che spiega, 2 anni dopo la firma degli accordi di ricollocamento dei migranti per dare sollievo a Italia e Grecia, che devono far fronte alla schiacciante maggioranza degli arrivi, il panorama migratorio del Mediterraneo è cambiato e il bilancio degli sforzi collettivi dell'Unione Europea è quantomeno modesto. E qui Jan Menz ci spiega appunto come purtroppo la situazione sia questa, cioè ci sia sulla carta un impegno maggiore, ma nel frattempo tutti i flussi migratori si sono un po' spostati e i trafficanti di uomini si sono riorganizzati per in qualche modo aggirare i nuovi ostacoli che trovano in Italia e in Grecia. E così appunto ognuno cerca, a volte, soprattutto quando ci sono elezioni imminenti, e sappiamo che anche noi in Italia voteremo nella primavera del prossimo anno, i francesi hanno votato per rinnovare il Parlamento, ognuno cerca di in qualche modo trovare una strada che sia diversa da quella che idealmente viene tracciata a parole quando parlano gli esponenti dell'Unione Europea. A proposito di elezioni, naturalmente sapete, il 1 ottobre, cioè domani, si terrà. In che modo e con che modalità è ancora un po' tutta una sorpresa, questo referendum in Catalogna. La Catalogna ha deciso, contro il parere della Corte Costituzionale spagnola, di indire e di preparare anche i seggi per questo referendum che El País, uno dei maggiori quotidiani spagnoli, definisce la Brexit spagnola, e vedremo che cosa succederà. El País scrive appunto: la discussione ricorda più il referendum sull'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea che quello sull'indipendenza della Scozia, che sapete è una delle regioni, delle macro regioni che fanno parte del United Kingdom e che da molti anni ha a forti spinte indipendentiste. Però appunto il paese dice non è più veramente un problema come quello della Brexit che non della Scozia. Vi dicevo brevemente qualche titolo sulla vittoria di Angela Merkel: è stata riconfermata cancelliere, ha eguagliato il numero di cancellierati del suo mentore Helmut Kohl, e il suo partito, la CDU, si è confermato il primo partito della Germania, anche se ha perso parecchi punti rispetto alle elezioni precedenti. E però per esempio uno dei titoli che mi ha colpito di più è quella della vittoria vittoria di Angela Merkel è in realtà un incubo, perché come dicevamo all'inizio, adesso bisogna trovare il modo di fare una coalizione, però la SPD, che ha perso ancora più punti rispetto alla CDU, che è il partito di centrosinistra con il quale Angela Merkel era riuscita a formare le precedenti grosse coalizioni, ha detto no, a questo punto preferiamo stare all'opposizione. E Martin Schulz in particolare ha come ammesso o comunque spiegato che la sua teoria è che il tonfo della SPD sia stato anche colpa di questa percezione di stare insieme al partito della CDU, quindi la grossa coalizione. Vi segnalo sulla vicenda STX Fincantieri, di cui si è parlato tantissimo in Italia in questa settimana, perché è stato raggiunto questo accordo a proposito di geometrie variabili, è stato anche definito un accordo flessibile, una trattativa flessibile, Le Monde addirittura l'aveva definito la fine di uno psicodramma. E qui mi rifaccio alla vignetta uscita su Le Monde, che ha questo storico vignettista che si chiama Plantu e che appunto ha deciso giovedì di dedicare la vignetta a questa vicenda. E il disegno, Plantu raffigura una grande nave pronta al varo nei cantieri di Saint-Nazaire. A sorreggerla da un lato i bastoni di tre bandiere, di cui due europee e una italiana al centro, dall'altra parte un quarto bastone col tricolore francese e la domanda che uno dei personaggi della vignetta fa all'altro che è sulla prua della nave è: ma galleggerà? E gli viene risposto: non complicare le cose. Passiamo invece a Financial Times per un'altra grande fusione che è stata anticipata da Financial Times martedì mattina, e poi è stata ripresa da tutti i giornali, ed è la fusione tra Alstom e Siemens, ma solo Siemens è un colosso tedesco che è attivo praticamente in qualsiasi campo industriale, compresa naturalmente la tecnologia, e però in questo caso si tratta della fusione delle attività ferroviarie. Secondo Financial Times c'è proprio una svolta, questo accordo rappresenta una svolta di politica industriale dello Stato francese che ha dato il via libera a questa fusione. L'operazione avviene infatti sotto l'egida del presidente francese Emmanuel Macron, che si è detto favorevole, ma con questo via libera dà anche un segnale concreto che va oltre le parole e le dichiarazioni alla creazione di campioni europei, anche se si tratta di cedere attività un tempo considerate strategiche come sono quelle ferroviarie. Dal Wall Street Journal invece prendiamo un articolo che parte dalle elezioni tedesche, ma ci riguarda perché secondo il Wall Street Journal, che ha analizzato la situazione politica italiana, alcuni gestori di fondi, perché il Wall Street Journal è il principale quotidiano in lingua inglese, ha la sede a New York, ma ha anche un'edizione europea e un'edizione asiatica, e si rivolge soprattutto al mondo della finanza più ancora che a quello dell'economia. Per alcuni gestori di fondi la minaccia di un'ondata di malcontento populista in Italia, che tra le grandi economie è quella più schiacciata dal debito e con la crescita più lenta, pone un rischio maggiore rispetto a quello di tutte le altre elezioni messe insieme. Speriamo in bene. A proposito di economia, molto divertente e interessante questo articolo, invita veramente alla riflessione, pubblicato dalla Neue Zürcher Zeitung, che è un quotidiano di Zurigo, lo ha tradotto internazionale e si intitola "Un classico che non è mai invecchiato". Qual è questo classico? Forse i classici in realtà per definizione, come diceva Italo Calvino, non invecchiano mai. Questo classico è Il Capitale di Karl Marx, che pensate fu pubblicato 150 anni fa, però secondo la Neue Zürcher Zeitung, che preciso non è un quotidiano di centrosinistra, quest'opera è ancora molto attuale perché aiuta a spiegare le crisi della nostra epoca e la forte crescita della disuguaglianza nel mondo. Perché certo è vero che in 150 anni è aumentato il numero di persone che sono uscite dalla, cioè c'è stato un grande numero di persone uscite dalla povertà, in generale il reddito pro capite medio nel mondo è cresciuto così come è cresciuto nel suo complesso, il PIL mondiale, ma sono anche, e lo sappiamo molto bene, aumentate appunto le disuguaglianze tra paesi e tra classi sociali. E tra continenti. Ultimissima segnalazione, perché si lega alla mia passione per la scienza e la divulgazione scientifica, dall'Economist un articolo sempre tradotto da Internazionale che si intitola Oltre i confini del sistema solare e riguarda la sonda New Horizon che pensate ha superato Plutone ed è quindi uscita dal sistema solare, raggiungerà la prossima destinazione nel 2019 e poi si spingerà ancora più lontano e chissà che non incontri qualche forma di intelligenza extraterrestre. Io ho sempre questo sogno da quando ho letto i libri di un grandissimo astrofisico, astronomo e divulgatore che era Carl Sagan. Era però l'ultima segnalazione per oggi, lasciamoci così con questa suggestione che ci lega alla galassia in cui si trova il nostro pianeta e anche a tutto quello che ci potrebbe essere oltre quella galassia e un buon sabato da Giulia Crivelli.